mi limito a questa, a questo punto del programma che dice presentazione della rete SET alla facoltà di architettura, perché poi tanto domani c'è i laboratori, quindi ci rivedremo tutti insieme a lavorare lì. Quindi qui è una specie di presentazione alla facoltà. Ma la cosa interessante, a parte io ho scritto sulla lavagna delle cose lì, così non se ne parla, no? Perché dice benvenuti, mi sembrava fosse la prima cosa da dire, ma si può interpretarla in due modi. Uno, com'è il più logico, benvenuti, siete venuti a Firenze, bellissimo, però l'altro aspetto dovrebbe essere rivolto alla facoltà di architettura, che non è per essere polemici, come vedete non c'è un docente. Io sono ormai in pensione da tanto tempo e comunque farò le presentazioni. Allora, secondo me, vabbè, poi c'è gli studenti, ovviamente loro hanno il loro punto di vista, ma io parlavo per ora del corpo accademico. E mi sembra importante questa cosa, che il benvenuto si può interpretare come una necessità, con la logica della rete SET, di rivoltare la maniera di insegnare nell'università, perché secondo me questo è il bello, cioè che questo cambiamento di pensiero sul turismo, perché a Firenze il turismo è tanto che se ne parla, e vabbè, prima c'era una lotta contro la museificazione della città e tutte queste storielle che si raccontavano, ma negli ultimi 10 anni, diciamo, ha avuto un'accelerazione, un cambiamento radicale, secondo me, un po' quello che diceva anche Antonio, cioè è diventato il turismo l'arma per penetrare nel tessuto delle città storiche, in particolare italiane e del Mediterraneo, che finora avevano delle strutture di resistenza di un certo tipo. Bene, invece la turistificazione, che in altre parti del mondo si presenta in altre maniere, oppure diciamo più che la turistificazione, diciamo la globalizzazione del capitale che entra in tutti i livelli, qui nelle città storiche entra attraverso la turistificazione, che è un'operazione pesantissima. Non per niente, secondo me, noi si diceva con Antonio all'inizio, dovremmo mettere beni comuni a Dio, perché questo è il punto che ci stiamo giocando fondamentalmente, che c'è, a parte che una città come Firenze e Venezia è un gigantesco bene, cioè, e lo è sempre stato dalla sua fondazione e dalla sua, non si chiamavano bene comuni, si chiamavano in altre maniere, in certi punti in montagna si chiamavano usi civici, ma comunque le città erano civiche, se non erano civiche le città chi doveva essere? E di fatto invece qui si perde proprio l'essenza profonda di queste strutture, sia come luoghi sia come persone, e questo è il punto gravissimo, e quindi come società, cioè una società che queste città l'hanno formate le persone, i luoghi comuni, e sono diventate luoghi dove la gente si trova sempre, e come diceva il nostro poeta, quello che abbiamo sentito fino a 10 anni fa, era ancora così, cioè se te andavi a Firenze avevi una capacità, o a Venezia, dove, insomma tante, non diciamo addirittura Napoli e Palermo, avevi una possibilità di convivere con le persone in una maniera straordinaria, e di vivere insieme con loro i loro luoghi. Te andavi nelle altre città a vedere come in quella città si vivevano i luoghi comuni. Non so, beh, da Firenze si partiva, si andava a Venezia, e dico, ci piaceva tantissimo, a parte la vita dei campieri, ma tutta la struttura, oltre al monumento, bellissima, la rete complessiva della città, lo stesso che a Firenze. Poi si poteva, ci sa tutti una tradizione, specialmente a San Frediano, Santa Croce, questi luoghi qui, e qui stesso, di essere. Allora, la possibilità che le facoltà, specialmente di architettura, che per fortuna ancora è rimasta in centro, di diventare un punto di resistenza a questa trasformazione, sarebbe formidabile. Gli studenti fanno benissimo a esercitare da parte loro questa cosa, ma dovrebbe presto contagiare, a mio avviso, anche anche gli insegnamenti, perché cosa si insegna a fare se no, se quello che dici te lo stanno distruggendo, non ha nessun senso, no? Hai perso tutto e ti metti a raccontare delle storie. Allora, quindi mi sembra bellissima questa cosa di essere accolti qui. Poi io ci ho scritto, vabbè, citando proprio i contadini toscani, Monteggi è un sivente. Mi dispiace, è un sivente Monteggi. Allora, non te ne facciano di tutto per vedere. Così come le mamme non ce le ritornano e dicono un vi si fa fare. È una parola sola, un vi si fa fare. E questo è il ragionamento che viene portato avanti nelle manifestazioni, ma per dire no. Cioè c'è anche dietro un modo popolare di sentire queste situazioni. E quindi poi viva i beni comuni, no, all'aeroporto, viva la piana. Queste sono le vertenze che noi ora abbiamo a bollire a Firenze, perché c'è stato il governo ha fatto un'operazione veramente... come dire, molto falsa, perché da una parte ha detto sì, però sembra essere un mezzo no. Comunque noi si continua ad andare avanti e penso che tra l'altro ci muoveremo su tutti i livelli, sui livelli di movimento, sulla diffusione tra la gente e anche però sul ricorso al TAR, perché uno già l'abbiamo vinto, un altro l'hanno vinto le mamme, per cui si deve usare tutte le armi. E però il ricorso al TAR ti serve anche avere come dire, un materiale scientifico e organizzativo importante. So che il ricorso al TAR fa. E lo stesso come un ricorso al TAR senza il movimento non ha senso, ma anche viceversa. Quindi secondo me questo è importante. E di questo ce n'è a Firenze tanti esempi. Ci sa anche il Notum del TAF che incombe, anche se dicono l'hanno chiamata la ruspa Mondalisa. Sì, ecco, appunto, a proposito di situazione, la ruspa che dovrebbe scavare sotto la città l'hanno chiamata Mona Lisa e poi l'hanno dipinta di viola. Ora si può essere più banali di così, non c'è possibilità, però a questo punto si può dire. Allora niente, dicevo, quindi poi là c'è scritto Firenze no costo e Firenze di dolore ostello, citando il padre Dante con tutto quello che segue che c'è scritto. E perché di fatto in effetti siamo a questo punto, proprio una svendita proprio della parte più intima, più sostanziale, più strutturale della città. È veramente una proprio un'operazione così. Bisogna dire, lo dice Dante, perché non lo dobbiamo dire noi. È una situazione allucinante. Qui si perde tutto, si perde noi stessi, si perde i luoghi, si perde dove siamo, si perde. E quindi e si perdono i beni comuni che sono la città, i beni comuni che sono il territorio, la piana, perché noi ci vogliono mandare un aeroporto in un punto strategico per l'ecosistema urbano che si regge proprio perché c'è quel punto lì libero e non costruito. Se si costruisce quel punto, tutto il sistema ecoambientale della città salta completamente. E questo non lo può capire nessuno. Noi abbiamo il dovere, sia dal punto di vista di architetti che dal punto di vista del paesaggio, di quello che volete voi, di difendere la nostra piana fino in fondo, perché se salta la piana, salta la città. Cioè l'ecosistema non c'è più, l'ecosistema che regge la città crolla. Quindi è una questione di vita o di morte. Non è che c'è una grande scelta dal punto di vista ambientale. E proprio per questo, specialmente in una situazione dove poi gli effetti così dei fenomeni mondiali sul clima, come dire, dovrebbero imporre alle città di salvare gli ecosistemi che le fanno vivere e respirare, perché ancora, nonostante tutto, per dire, anche se sembra di no, mettiamo Napoli col Golfo e il Vesuvio resiste, Roma con altri suoi sistemi, anche Firenze riesce a resistere, ma con che cosa? Con l'Arno, con Monte Morello e con la Piana. Dal suo interno non ce la fa più. E questa è la situazione. Noi siamo arrivati a un livello di strangolamento attraverso le operazioni, tipo Scuola dei Carabinieri, tutte le vendite che Antonio puntualmente... Ma già, voi avete fatto un giro in città, ormai la città è praticamente distrutta. Cioè bisogna fare l'inversione totale, però la riconversione parte dall'esterno. Dobbiamo avere questa sensazione profonda che è dall'esterno che si mette in moto i processi di riacquisto e anche dall'interno della coscienza. Quindi la turistificazione è veramente, come dire, come se noi si fosse scoperto il cancro nascosto delle città che già da qualche anno rode e ora sta esplodendo. E con, non parliamo poi degli amministratori che girano con la cartelletta sotto il braccio e fanno vedere la nostra città nei posti più strani, è una cosa umiliante. Ma come, se sei sindaco e vuoi fare il senzale, vuoi fare il tenutario del bordello? Perché a questo punto questo è il discorso. Quindi basta, mi sono... quando arrivo qui mi arrabbio, quindi la smetto.